se ne va. Non so dirti come, ma succede solo quando due persone fanno insieme un volo. Non ci posso.